su canale 10? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Canale 10, Brecco. Che è avanti? Ah, è Gianni. Ah, e chi è? Chi è? Ciao Gianni. Ciao Lu. Vabbè. Cazzo, c'è un bussuggio, non c'è nessuno né in PMR né in frequenza. Nel 27. Sì, ci siamo con io, Luca Antonello, c'è Attino anche. Chiama, sono tutti in ascolto, capito? Io acceso non ho sentito nessuno, boh. Adesso accedo sul 10, vediamo un po' se c'è qualcuno. E ha risposto tu, dai. Perché sono qua facendo roba, capito? Vabbè, dai, ok. Aspetta che rispondo dei messaggi su WhatsApp. Io fai. Che è avanti? Un mortorio, Cazzo, uno lo s'accorcia con l'altro, cazzo, e sono accorcia giocato, boh. È vero, aspetta un attimo, buonasera a tutti, chiudo là e vedo. Ciao a tutte e due, buonasera a tutti. Va bene, e qua era acceso, l'ho acceso, ma non sentivo niente. Vai Massimiliano, io adesso mangio, anzi sto ritirando un bel pure. Ehi, ciao Marco, buon pranzo allora. A me io mi vado a incazzare, io, cioè, cazzo, con la 27 tutti si ascoltano, lasciate il bagnamento sul BMR, cazzo, ma che adduri, cazzo, boh. E infatti sono giocattolo, io lo prendo come un giocattolo. Vabbè, io non lo uso solo a volte per fare un po' di ascolto, ma poche volte entro, tutto per quel motivo lì, perché uno ti ascolta, l'altro no, e tu si usi quelli omologati ancora più. Caparrozzolo, vabbè, vabbè. E chi è che usa l'omologato? E lì non vai da qui a 50 metri, non prendemi. Lo sai, ho provato qua, come giri l'angolo, puff! No, il mio è omologane però, è di quelli omologati, diciamo che, vabbè, sono stati modificati, va. E il problema principale poi dei Bao Bao è quella cosa, che è poco filtrato in ingresso, quindi come metti antenne performanti, l'avevo provato di fronte a te, mi pare, no? A San Francesco, ti ricordi? Ricevitore, riceva tutto, metti quello lì, boom! Buio totale, assordato dall'antenna esterna, per quanto fosse una banale antenna veicolare. E ho detto tutto, vai Massimiliano. No, io sto parlando di Intec 40-40, vai e cerca. Sì, lo conosco. Io ho avuto il 50-50. Di quella serie vanno abbastanza bene, poi il bello è che vanno con le pile stilo, io uso le ricaricabili, se sei in situazioni di fretta puoi mettere anche le pile normali, capito, quelle usa getta, altro che batteria litio, poi le vai a comprare, molti portatili non hanno il battery eliminator, lo sai già, se una volta che la batteria litio si rovinerà non ne trovi più in vendita, come già succede per un apparecchio, e c'è di buttare l'apparecchio, cioè non puoi mettergli alimentazione esterna, nulla, devi fartelo tu, devi sfasciare il pacco batterie, mettergli l'equivalente che c'ha il battery eliminator, aspetta, chi è che mi tempesta i messaggi? Lampa di tutto! Eia, lampa di tutto! No, a parte gli scherzi, comunque è buona cosa il battery eliminator per molti apparecchi di quel tipo, Alcuni non ce l'hanno. Oh Claudio, succede, come è successo anche a certi apparecchi costosi di una volta, portatili. Una volta andata la batteria litio non trovavi i cambi e l'apparecchio era inutilizzabile. Vai, buona serata. Quello 40-40 che c'ho io c'avevo il pacco batterie, praticamente erano tanti stilo, dovesse in parallelo, capito? E funzionava così, però se voi ci puoi mettere le batterie ricaricabili, c'ha il caricabatterie, c'è tutto. Eia, non so se mi ha copiato Claudio, l'ho rilanciato, ho detto buonasera, riprendi. Sei fuggito, mi? Sì, magari non ho chiamato il telefono. Avanti bulldozer, finito adesso di lavorare. No, già, veramente ho finito adesso di dormire. Sto lavorando di notte. Certa roba. Tutta la notte, lasci vedere. Sì, dalle 10 alle 5 e un quarto. Vabbè che poi c'hai la giornata libera, però si fa comunque. Vabbè, la giornata libera fino a un certo punto, perché poi quando vai a dormire alle 6 del mattino, te ne besi alle 10, alle 11, non è che sia proprio tutta la giornata libera. E poi ti lascia sempre un vuoto, quando fai notturne è così. Perché di notte è bene ci vede a lavorare. Sì, io ci sono i fari dello scavatore, tutti i fari a LED hanno messo. Dove siete? Sempre a Udine, vicino alla sala di Udine? No, già, siamo a carica, stiamo allargando un tratto dove passa il treno. Ho visto quel passaggio a livello che c'è piccolino, che c'è quella ruccia alta, alta, lì siamo. Ah, ho capito. Vabbè, già sei vicino allora, adesso per la vicinanza. Un mesetto poi ritorno su a Udine. Ho visto, io sono passato l'altro giorno lì, sono andato a San Teodoro. Sono passato lì e ho visto che c'è tutte deviazioni, un casino. Ancora non è finita, già capito. Appena finisce, già è bella, tutto rettilineo. Quello è bello, là. Già andare. Comunque già sono andato lo stesso. Avanti Marco. Io stavo rispondendo al cellulabile a WhatsApp. Che dire? Dai, io devo rimanere nascosto perché devo mangiare, inutile che sto col minchiofono in mano, capito già. Rimango nascosto. A dopo. Ma non l'hai ancora perso questo vizio. Andare, vai tranquillo, vai, sto scherzando. Buon appetito. Buon pranzo allora, Marco. Vai a mangiare, vai. Bene, sta andando, sta andando, Gianni. Sì, va bene, questa bene sta andando. Questo qui è un altro base, che sto usando. Un altro base. Sì. Va bene, va bene. Questo è l'Intec 495. Tutto azzurrato da me. Intec 495, no, non lo conosco già. È bellino, dai. Allora, te lo descrivo, c'ha distorsore di modulazione, in più c'ha lo smitter, in più c'ha la frequenza e il canale a fianco. E rimane più fino degli altri base, dai. Rimane più basso, però è bellino, dai. 497. Sono lo sai tu. Che cosa avevo detto io? Tu hai detto 495. Perché è un numero che io ho in mente, non ti dico di che cosa, però è un numero che io ho in mente, 495, e ho sbagliato. 495. Tombola. Bene. E da te Claudio, come sta andando questo apparecchio? Come sempre, va bene, va bene. Ma è un veicolare già. No, base. Va a 220 e a 12 volt, in due maniere. Adesso stanno a 12 volt. Ok, ciao Cla. Ho guardato su internet, non me lo dà. Come non te lo dà? Intec base 497. Multicom 497 credo. Infatti se non dici ti multicom ti dà un'altra radio. Quello è un multicom 497 della Intec. Però è un multicom, devi digitare multicom 497. Ma cos'è quella tutta grigia già? Cosa? Qual è quella tutta grigia? No, rimane scura, è un grigio scuro, va. Ho capito, va, ciao. Ho capito qual è, sì. C'hai due strumenti più l'altro grande frequenzimetro forse. Frequenzimetro più canale a piano. Ce l'avevo anche io, Massimiliano, tanti anni fa. Mi sembra che l'avevo anche vista, conoscevo quell'altra base, l'altra scrivania con tutti i vintage, ce l'avevo anche io quella lì, l'avevo appoggiata nei capri. Sì, ma sì, l'ho vista, ma non è che non mi attizza bene tanto, va. Esce bene comunque. Sì, che va bene, ma mi c'era in chat. Avevo avuto un problema, non mi ricordo dove, l'ho volata così, ho tutto il porto di seduto, ne ho volato un sacco, 6 o 7 ne ho volato. Qualche numero? Troia, aspetta che mi sta chiamando Luca, funzionante o non funzionante? La Fabioscia, andare, ce n'è una qua, 100 euro. Va bene, un secondino mi allontano già, riprendete voi che io mi allontano un secondo, ma con più a capicolo. Va bene, va bene. E questo già schirreggia. Aspetta un attimino, Flavio, secondo. Vendo compro scambio. Eia. Quindi Multicom, avevo azzeccato, Multicom 497, sì, che poi è una serie degli Intec, diciamo è il nome integrativo per intero di quella radio. L'ho vista anche aperta, ma credo fosse diversa quella radio, invece assomiglia molto a quelle schede di quelle radio CRT che vanno adesso, Claudio, quelle tutte SMD-MI. Sì. Fino a quando funziona va bene quella radio, quando non funziona più è un casino. La sigla è Multicom, la casa costruttrice è la Intec, però quello è un Multicom 497. Capito? Va bene. Claudio, ma è vera sta cosa? Ieri praticamente stavo ascoltando, ero drumito sul divano, mezzo drumito, che hanno chiuso Conad via Gramsci e via e quello di Ocean, causa dipendenti Covid. Sì, è una palla che ho, che è una scattata che stavo scrivendo. No, io ci sono in quarantena, ho un po' di dipendenti, io l'ho saputo proprio ieri perché ci lavora la mamma di un collega di Varia, di mia figlia, capito? Ma assolutamente non chiuso, abbiamo fatto delle restrizioni, molti sono in quarantena, però il supermercato è aperto, è una coglionata, scrivono poco di stronzate, cazzo, per carità, già siamo tutti con la paura, anche questo devono fare, cazzo, prendere per il culo la gente, la internet è un troiaio, è peggio di Facebook. Sì, un troiaio, beh Facebook poi fa parte di internet. Sì, comunque si era già capito una cosa, amico Claudio, che ci stanno come da un bel tempo, ci stanno abituando all'idea che dobbiamo entrare in un secondo lockdown e vedrai che da qui, credo che lo stiano già decidendo in questi giorni. Poi non so se sia zone, se sia a orari, tipo il coprifuoco di notte come stanno facendo in certe città. Comunque è un casino, una situazione di cacca. Una situazione di cacca per chi già ha l'attività commerciale che già è stato col primo lockdown è stato un duro colpo, ce li daranno la botta finale. E la cosa schifosa è che poi ti facevano pagare le tasse anche quando eri chiuso, cioè se sei un mese chiuso, due mesi chiuso, non fagliele pagare, no. È un paese di merda l'Italia, scusate il termine. Dai, bianco per me che devo mangiare, ciao, vai Claudio. Dove preso? Via. Ci sono delle tasse fisse, Marco, che si pagano anche se tu non vendi, anche se sei chiuso, paghi sempre lo stesso tanto. È di quello che molta gente si lamenta, non vende e deve pagare le stesse tasse. Ma se mi date, l'ho mandato, l'hai visto? Sì, lo stavo guardando adesso già. Carino. Comunque, ciao Marco, ci sentiamo dopo. Non è quello il problema, Gianni, è che quando bloccano le tasse, come hanno fatto da marzo a giugno, le paghi. Le paghi senza interessi, ma le paghi più piacere. Hai capito? Come hanno fatto col primo lockdown di 40 giorni. Io spero che facciano chiusura come in Alta Italia, come ha scelto di fare l'Alta Italia, dalle 23 alle 5 del mattino, così si ritirano tutti i danni e vantaggi che state in giro la notte a fare assembramenti, a fare casino, soprattutto il fine settimana, perché da questi vantaggi che è nato tutto, capito? Ci si rovina il dente a casa, invece, tu vedi ragazzi di 16 anni, cazzo, bottiglia di birra in mano, in piazza d'Italia, anche a Roma, da fare schifo, cazzo. Da prendere a calci in culo fino a casa. Devi abbellire io. Tutto pieno, sempre lì, sempre pieno. Il sindaco ha detto che se continua così chiude le parti più dure degli assembramenti, quindi Piazza d'Italia, Piazza Tola, Piazza Fiume, l'altra via che c'è lì di Via Cagliari, come si chiama? Via Torretonda. Quelli sono i punti strategici. È un casino la notte. Sì, è vero. Sì, capisci. Poi per la rotonda, se tu vai venerdì e sabato, c'è sempre il complesso, è sempre pieno di gente, c'è un casino di gente, gente seduta al tavolino, gente che passeggia davanti, un casino, non ci sono più posti, tutto occupato. Siamo andati da poco noi lì a mangiare, praticamente era pieno di gente. Infatti poi ce ne siamo andati al ghero, dopo che siamo andati lì siamo scesi al ghero di notte, però lì abbiamo mangiato. Vabbè, comunque è giusto che si faccia questa restrizione, così ne avviene tutti i pagliacci che mi sono in giro, dalle 6 di sera, alle 4 di mattina, ma che vado a cagare, vai Massimiliano. Mi sembra che lo stanno già decidendo, mi stavo un po' leggendo lì sui giornali, vogliono proprio chiudere 15 giorni. Nell'aria che vogliono chiudere, ci stanno quasi portando a pensarlo, di modo che poi siamo già abituati quando chiudono. Non si può fare una cosa del genere, non si può, la gente sta ancora pagando quello che non ha pagato da marzo a giugno, ma come cazzo si fa? Le attività vanno a morire, si muore di fame, non di Covid, non si boccerà, le attività commerciali devono portare economia, devono mangiare, devono far girare il denaro, fai le restrizioni, da talora a talora non si può circolare, blocca i porti, gli aeroporti, blocca tutto, in Sardegna non deve entrare più nessuno, punto e basta, non che chiudi i bar, i ristoranti, le pizzerie, non è una cosa che si può fare. Allora ti spiego, guarda qua, ieri sera noi verso le 9:15, 9:20 siamo entrati lì da Columbano a prendere un caffè, ok? Al bar completamente vuoto. Allora mi ha detto, se dovete consumare vi dovete sedere, se no dovete stare fuori dal bar, nel tavolino vi dovete sedere, vi devo servire io. Dalle 18 fino alle 24, se hai il tavolino lavori, se no devi salire al bar. Sì, questo lo so perché mi ha detto anche Ilaria, cioè Ilaria lavora al bar, quindi è così. Però stanno lavorando lo stesso, stanno lavorando, perché c'hanno i tavolini sia dentro che fuori, il bar è a due piani, sotto e sopra, capito? E poi c'è il coso fuori, il gazebo fuori, quindi le stanno lavorando, non si possono lamentare. Però il problema, come dici tu, è chi non ha tavolini, che c'ha un barettino piccolo, è un casino. Ma da chiudere tutto a fare queste restrizioni potrebbe anche sopravvivere uno, ma quando tu chiudi l'attività, ma come cazzo mi chiama Napoli se c'è un casino di Gesù Cristo? Sono scesi più di 200 ristoratori, baristi, commercianti in piazza, ma incazzati niente contro il governo, dice noi andiamo a Roma, facciamo un casino di Gesù Cristo, perché la Campania, De Luca, si arrende in tutto, hai capito? Il presidente della regione della Campania sta chiudendo tutto, ne frega un cazzo di Conte. Papà, riprendo un attimo, fa un po' che mi ha chiamato mio padre, devo scendere giù, devo dare una mano, riprendo dopo. Sì, certo qua che adesso ho lasciato il compito ai sindaci di decidere, e anche quello è una grossa responsabilità, poter decidere su certe cose non è che sia facile, perché da una parte non vuoi che ci siano i contagi, dall'altra parte non vuoi chiudere, però bisogna andare nella via di mezzo, secondo me. Come stai dicendo tu, chiudere negli orari di punta, quando vanno proprio di notte, dove vanno nei locali, si imbriagheggiano e fanno, quell'ora lì è proprio l'ora pericolosa. Alle 18, alle 23, il sistema che si sta adottando, nel senso che tu non puoi sottare davanti al bar a sigaretta in bocca con la bottiglia o la birra in mano, o ti siedi dentro con la mascherina, o ti siedi fuori con la mascherina nel tavolino. E questa è una cosa che va bene. Il resto, dalle 23 alle 5 del mattino, va benissimo, perché il fine settimana è pieno di gente in mezzo ai coglioni, senza mascherine, a bottiglia di birra in mano, tutti questi ragazzini vanno rinchiusi al manicomio. Perché sono irresponsabili, non hanno ancora capito la gravità della situazione, non hanno ancora capito. se possiamo stare sino a domani parlandone, perché io quando vado a portare il cane me ne passano 4, 5, 6, tutti senza mascherina. Allora, quello lì, se vuoi cosa c'è in via Roma, allora ti metti a piangere, non a ridere, a piangere ti metti. E mia figlia li vede tutti i santi giorni perché lavora, quindi è un casino, è un casino, è una responsabilità maggiore. Io lavoro a chi ha deciso quest'estate di aprire le discoteche, hai capito? Perché noi ai primi di agosto non avevamo un contagio in Sardegna, quando hanno aperto le discoteche in Costa Smeralda è successo il pandemonio è successo, e non solo in Sardegna, in tutta Italia. Le discoteche non servivano un cazzo, a niente, non servono per mangiare, non servono per vivere, è un divertimento che tu dovevi abolire sino a quando eravamo tranquilli, invece ci siamo incasinati. Claro, prima delle discoteche dovevano chiudere l'aeroporto e i porti, così non sarebbero venuti chi ha portato il virus qua, perché loro dicono che l'abbiamo contagiato noi, ma solamente chi l'ha dato. Infatti, la responsabilità se la prendono i governatori, soprattutto il nostro governatore della Sardegna, non doveva assolutamente fare quello che ha fatto, nel modo più assoluto, perché intanto c'era una perdita del 70%, constatata dall'Istat, ok, quindi per quanto riguarda la ristorazione, per quanto riguarda il turismo, cosa cazzo hai lavorato per guadagnare il 30%? Che cosa hai fatto? Hai fatto un disastro hai fatto. C'era un contagiato solo in quel periodo, uno solo ce l'era a Sassari, capito? E dopo adesso a me da capisola va. Siamo quasi a 250, Gianni, siamo a 250, sta salendo giorno per giorno. Quanto? 350, eravamo a 175 l'altro giorno, 2 giorni fa 350. Qua si mette male. L'unica cosa è stare in casa e uscire solo per le cose necessarie e basta. Io sto facendo così, la verità. Io non sto facendo niente invece, non sto facendo nulla proprio, capito? E mi incazzo proprio per quello, perché per colpa di 4 coglioni non gestiti dai propri familiari è successo un casino. È successo un casino. E la responsabilità se la devono assumere, capito? Non darla agli altri, perché gli altri non ne hanno colpa. Adesso stanno cominciando ad avere problemi all'ospedale per metterci gente. Volevano mettere in un albergo la Grazia Deledda, ma dice che la struttura non è adatta a fare certe cose, quindi ci hanno ripensato. Stanno cercando strutture per mettere quelli che devono stare in quarantena, che però a casa non possono stare. E vedrai che se c'è il casino anche negli alberghi. Stanno cercando rifugio adesso, perché l'ala del policlinico non è adibita al Covid. Cazzo, una struttura privata che ha aperto da poco, che è ancora nella merda, che mia moglie è in lista d'attesa già da più di un mese per fare un'operazione, cazzo, in più si vuole burro di sicuri contagiati di Covid. Ma io finiamo, e quelli di Sassari li stanno trasferendo ad Olbia, capito? Al Mater Olbia, che è uno degli ospedali più grandi d'Italia, mi pare quasi a 400 posti. Cazzo, e noi abbiamo 2 ospedali, in tutte e 2 ci hanno 200 posti letto. Vabbè, Mater Olbia è un ospedale nuova struttura, quindi l'hanno fatto, diciamo, a regola d'arte. E vabbè, anche l'ospedale civile è una parte nuova. Io al policlinico sono stato il primo che ha fatto la lastra con i macchinari nuovi. Tu devi vedere come l'hanno fatto, sotto l'hanno messo, perché non mi hanno avvisato, dovevo andare il 22, sono andato il 22 e mi hanno detto no, guardi, non hanno avvisato perché stiamo trasferendo tutti i macchinari, li stiamo mettendo giù, e ci sono tutti i macchinari nuovi, completamente nuovi. Ho fatto la prima lastra, però poi ho aspettato quasi 3 ore per avere il referto, perché praticamente non riuscivano a collegarsi col computer, non so, era il primo giorno, insomma, erano tutti incasinati, non capivano un cavolo. sono stato lì, ho pagato la bolletta di 4 euro di parcheggio, figurati tu. Sì, già lo so, sono ancora in automobile, già lo so, ci abitano 4 qua, lavoro al policlinico, figurati. E vabbè, comunque, prendiamola così. Io mi cazzo perché era una cosa che si poteva evitare. In Sardegna si poteva evitare, siamo un'isola. Guarda Sant'Antioco a vedere, a fanculo, l'altra isola che c'è, Sant'Antioco, a Carloforte a vedere. Non si entra più a Carloforte, chiuso, vai a Rugasino, via, fuori dalle balle tutti, non si entra più. Qua cazzo non siamo riusciti a bloccare i porti e gli aeroporti per quanto riguarda Porto Torres e Olbia e Cagliari, compresi naturalmente Alghero e Elmas. Cazzo, ma fa 2 mesi gagati, 2 mesi, cioè vi rendete conto che tra luglio e agosto è successo questo casino, tra luglio e agosto. Non ho capito io. Perché sono venuti i turisti che hanno fatto il casino. Sono venuti con il Covid e magari ci abbiamo pure la vino e si giuntino a stessi. A me me l'ha mandato quel messaggio Marco, un'amica mia, però poi mi ha scritto fuck eccetera eccetera. E mi ha scritto avvisa tutti i tuoi contatti che vabbè quei posti lì hanno chiuso sia lì che a Città Mercato, che praticamente quelli di lì sono andati in quello che c'è a Città Mercato e hanno contagiato tutti quanti le persone che c'erano, non so quanti sono, una catastrofe insomma, ha detto vai che non mi butti a me, c'era qualche fregatura, e lei me l'ha mandato e c'era scritto fake. Le fake news sono, sì, sono delle cose per mettere ancora più panico nella gente. Allora la ragione è di punirli. Chi crea allarmismo ingiustificato, quelli bisogna castagnarli. Vai Claudio. Castagnarlo. Rubare la Viuliade, capito? Già ci sono perché l'ha detto appunto la mamma di questo, di un collega di mia figlia che lavora alla Conad, sì ci sono, però sono in quarantena, gli hanno già fatto il tampone, stanno controllando ogni 2-3 giorni, stanno controllando tutto il personale, capito, sia giù che su, però chiusura non c'è stata e non ce ne sarà, ma stai scherzando, una struttura come quella la chiudono, cazzo. E da seduti a casa così, roba di birbi, non si può fare una cosa del genere. Comunque penso che non è capo se si mette la mano sulla coscienza, perché è impossibile chiudere bar, ristoranti, e ci saranno restrizioni per quanto riguarda i centri commerciali, ci saranno, e soprattutto il lockdown dalle 23 alle 5 del mattino, che è già una cosa molto, falla dalle 22, falla dalle 10 alle 5 del mattino, capito? In modo che tutte queste persone che stanno in giro, perché è un mare di gente che sta in giro girando a vuoto senza far nulla, dalla mattina alla sera, non stanno andando a scuola, capito? E le scuole, e chiudi le scuole, per quest'anno è andata così, chiudi le scuole, è inutile che lasci le scuole con un assembramento di questi allucinanti che ho visto, cazzo, nei pullman, tutti ammassati all'uscita della scuola, chiudi scuola, niente, tutti a casa, ok? E lockdown dalle 23 alle 5 del mattino, dalle 22 alle 5 del mattino, e vedrai che qualcosa insomma cambierà, ma non chiudere totalmente, perché chiudere totalmente vuol dire mandare la gente a impiccarsi, a morire. Alle scuole possono fare come ha fatto Marco, mio figlio l'anno scorso, che ha fatto le lezioni al computer e poi è andato a dare l'esame a scuola, però le lezioni le ha fatte tutte al computer. Ma mi sembra che vogliono abolire anche quello, capite? Vogliono abolire anche quello, perché molti non sono in condizioni di avere il computer, preparazione tecnica a livello appunto così, a stare al computer non ce l'hanno, quindi molti professori sono entrati in grande difficoltà e quindi vogliono, io sono d'accordo, basta, questa è andata così. E ti dico un'altra cosa, quelli che secondo i docenti sono sopra la media, sopra, ma molto sopra la media della sufficienza, tutti promossi, date, tutti bucciati, torna il prossimo anno, vai rompi coglioni. Claudio, una domanda vi devo fare, se esce il vaccino lo fa? No, assolutamente no, io sono contrario. Io lo stesso. Tu Marco? Ah, bella volta sei una gabbia, no. Non ho mai fatto vaccini io, la natura è natura, capito? Basta fare come si fa veramente, di tanta sicurezza, mascherina, stai a casa e vedi che non pigli né infezione né nulla, capito? Perché io sono 2 anni e mezzo, da qua quasi 3 anni a novembre faccio, al prossimo mese, che sono a casa, non ho più preso l'influenza, l'influenza la prendevo stando a contatto con gli altri, quando lavoravo, ero sempre con raffreddore, sempre. Da quando invece non sta più lavorando, non ho più avuto nessun sintomo per influenzare. Beh, quello, magari anche nell'aria, te lo puoi prendere quando vai a fare la spesa, qualsiasi cosa, nell'aria il virus, quello dell'influenza. No, ma questo vaccino è stato fatto troppo affrettatamente, fra poco dice a dicembre che dovrebbe uscire il vaccino, e dice che lo vogliono fare obbligatorio, quindi dovrebbero farlo tutti, io però sono un po' contrario, dico la verità, cerco sempre di evitare le cose, anche quando vado in ascensore io me la metto, perché penso, viene, porta pizza e porta la pizza, e viene l'operaio e sale l'operaio, e cosa ne so che si fanno con il coronavirus che si ghiatta? Perché nei condomini, all'ingresso dell'ascensore ci va il porta coso, come si chiama, igienizzante, capito? E ti devi pulire le mani, quelli delle pulizie devono, e noi lo stiamo facendo igienizzare molto spesso, capito? Lunedì, il mercoledì, cioè il martedì, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, capito? 3 volte alla settimana stanno igienizzando l'ascensore, 3 volte alla settimana stanno pulendo l'androne, tutto igienizzato, stanno facendo molta più pulizia, mentre prima lo facevano 1 volta alla settimana di venerdì le scale e l'androne, tutto ascensore completo, mentre solo il martedì l'ascensore con l'androne. Adesso 3 volte alla settimana, cioè, ho visto il cartello giù che ha messo l'amministratore, capito? È obbligatoria la mascherina nell'ascensore, obbligatoria. Quindi questo è anche per tutelarci tra di noi che abitano un condominio, soprattutto il mio che è molto grande. Però se tutti fanno come deve essere, tu vedrai che le cose vanno bene, ma siccome ci sono imbecilli, persone che non credono, persone che non fanno quello che devono fare, e allora vai e muri, magari ne affrutti. Molta gente dice che non è vero, che questo virus è una cosa inventata, che non è vero, che è tutto per fare business, per vendere, per fare, per creare delle case farmaceutiche, per farvi guadagnare queste case farmaceutiche qua, eccetera eccetera, con vaccini, guanti, igienizzanti e via dicendo. Lascia perdere, che non è assolutamente così. Vediamo un po' se è rientrato Massimiliano, rientrate, sì. Mi sta aiutando il padre, E tu Marco, finito di mangiare? No, la cosa è lunga. No, dicevo già, comunque tutte e due le cose, cioè il virus c'è, non è, secondo me c'è, certi sono negazionisti, dicono che è un'invenzione, invece ti dico il virus c'è, però molti, come in tutte le situazioni di crisi, molti sciacalli si arricchiranno con questa situazione. Primi, in primis le case farmaceutiche con la scusa dei vaccini, dei richiami, dei controvaccini, guarda che saranno migliaia di dollari di, o milioni di migliaia di dollari di cosomi, di guadagno, più le mascherine, più tutto il resto, io potrei dirne. Sì, quello le case farmaceutiche, senza ombra di dubbio il guadagno ce l'ha. Addirittura ho pagato la mascherina a 2,50 euro, figurati. Cosa già, scusa, non stavo seguendo che stavo parlando con mia moglie, cosa hai detto? Ah, ho detto, ho pagato la mascherina, sto sbagliando, non 2,50 euro, 4,50 euro volevo dire. Sì, ha già un po' qui. Guarda, ne ha una per ogni giorno. si può dire, non è il problema delle mascherine, no, già. È il problema di indossarla, non averla, indossarla, perché tu la indossi, io la indosso, quella indosso, ma molta gente che io vedo non la indossa per niente, non era fotti nuda. Uno a me, sai cosa mi ha risposto l'altro giorno? Che sono entrato alla Kobach qua ex, insomma, dove lavoravi tu praticamente, vai, ce l'abbiamo qua, io la Corrado non ci vado, insomma è andato, me la fruttino dove la Kobach e allora spingo, sono entrato alla Kobach e c'era uno che stava entrando senza maschera, l'ho tesorato la macchina per entrare, ho detto lei c'è la macchina, va bene che ce l'ho, allora pensi a lei, così sta dito. E proprio anche questi strafottetti, capito? Non fanno a capire niente. Invece l'altro giorno erano di questi delinquenti, però a uno l'ha fatto rigare dritto. Beh, dammi invece del nato, veramente in un modo. Dammi invece del nato, se c'è qualcuno in una cavanata ti ce l'hanno abbatti. Cazzara, se non sai, no, che devi stare a un metro di distanza, erano un ragazzo sui 50 anni, quello che ce l'ha dietro. E si è cambiato un punto, si è tirato a andare, si è cambiato un punto, si è fatto ruio. No, ma già mi avevo fatto dello sfinche, stavo appoggiando, ho appoggiato la roba toccata a me, praticamente ho aspettato che quella togliesse tutta la roba dal rullo, le pagasse, tutta la roba nel carrello, poi ho iniziato a mettere la mia. Chi fa pigliato, sai che prendono quei separi, no, e ha messo il coso, stavo appoggiando, cosa sta facendo? Sto appoggiando la roba, aspetti, quando fini tu io intanto si allontani, che è troppo attaccato, c'è la mascherina, non me ne frega niente a me c'è la mascherina, si allontani, l'ho detto, stia lontano e aspetti il turno, quando ho finito io metto la roba. Non è che sto toccando la roba sua, torra lui, torra per la testa, sei torra vici, allontana di, e si allontana. No, ma me l'hanno fatto da Decathlon, c'era la commessa che stava facendo vedere i vermi a questo tipo che era a sua volta con la moglie, e io mi sono avvicinato, sai che io ho la passione, stavo guardando se erano bici i vermi, no, perché detto, magari me ne pide una scatola e me la pescare. Stavo guardando questa tipa, si gira e mi fa, ascolti, si allontani, questo è mio marito e io ci posso stare vicino, ma lei non è mio marito. Io gli ho detto, scusi, io ho la mascherina, e poi gli ho detto, la commessa non è suo marito, lei addossa la commessa, si è rimasta secca. E tutte queste cose ci sono, capito? No, infatti la commessa dello spin, cioè della, sì, dello spin, gli ha detto, ha ragione signore, non appoggi niente, sì, da quando non è arrivato il rullo e ho terminato di battere tutta la roba del signore. Ah, va bene, va bene, pensavo si potesse appoggiare, no, non deve appoggiare niente, l'ha detto, l'ha intervenuta lì. Capito? Poi si è avvicinato Marco, il capo responsabile del negozio, il capo negozio, no? Ho detto cosa c'è che ho detto, no, niente Marco, nessun problema, stavo spiegando al signore che deve avere un attimino di pazienza. E basta, è finita lì. Ma sicuramente era buttigliente, allora sono partito in una maniera un po' più grezza, no? Capito? Allora non avevo preso nulla. Ha giudito di allontanati, allontanati. E aspetta il tuo turno, capito? E vabbè, alla fine, ma cazzo a Napoli, minchia, a Napoli c'è un casino. Guardati stasera il TG5, c'è un casino di Gesù Cristo, minchia la gente che c'era in piazza, ma è incazzata. L'intervistatore va via, le vene del collo, cazzo, quanto è l'orecchio. Già l'ho visto altro nel giornale, sì. Solo che Claudio, a volte non ci pensi, io l'ho fatto senza pensarci, la verità, ci sono rimasto male anche perché ci sto sempre molto attento, no? È il momento che sbagli, subito ti rubate di nottare. E vabbè, a me fa anche ragione perché io mi sono avvicinato troppo per vedere i vermi, però non è che sono andato addosso a lì. Mi sono avvicinato, guardato e basta, tutto lì. E lui ha detto, scusi, ma anche lei, gli ho detto, la commessa non è suo marito, eppure è attaccata, che non gli ha detto nulla. E ma noi stiamo guardando la roba, non sapete, se è attaccata, sì. Vabbè, vabbè, vediamo un po' se qualcuno vuole entrare. Sono tedeschi. Cosa? Tedeschi, Kartoffel, Telefunken, Volkswagen. Io sento qualcosa sotto, ma devono essere fatti in FM, boh, a qualche parte. Vabbè. Oia, oia, e comunque va, veramente. io Gianni non ho più niente né da perdere né da guadagnare, a casa sono e quindi sono arrivato, va bene così. La preoccupazione è mia figlia che è in un settore molto colpito, certo, molto colpito, e se chiudono è un casino perché cercano la pacca giugno, ce la si butta. Ma come si fa? A giugno, siamo a ottobre, dovrà già raddi, non è una cosa fattibile, assolutamente. L'altro giorno mi ha chiamato una collega, Claudia, e mi ha detto, Biagi, dovevi essere tu, guarda, ci ho pensato, perché è venuto questo tipo, è entrato senza mascherina, ha detto, scusi, la mascherina, e quello è andato dritto, ha fatto finta di dire, signore, scusi, la mascherina, e niente, è andato, ci ha preso la frutta, è andato alla cassa a pagare e ha detto scusi ma non ha capito che ci voleva mascherina, ha detto lei pensa a fare la commessa e se non sa fare la commessa se ne va a lavare le scale, così gli hanno risposto. Allucinante, di tutte le maniere ce n'è. E quando ti senti rispondere così cosa fai? È più di chiudere una camera da faccia, però quando stai lavorando non puoi rispondere, devi essere educato, capito? E loro ne approfittano. Qua a me, Viale Trento, la Copec, poco sono tirioso, mi le commesse, lì chiamano subito i vigili urbani, quando c'è gente che fa piazzate, che non vuole mettere mascherina, allora, i vigili urbani, quando gli mettono 400 euro di multa, vediamo se gli piace, poi che queste multe vadano pagate o no, non si sa, c'è gente che sta facendo carte false per non pagarle, cioè spendendo soldi in avvocati, dice per principio. Allora per principio mettiti la mascherina e non ti fanno la multa. Infatti come ho detto io le altre volte, se proprio non ci credi al virus, mettitela almeno per evitare la multa. E vabbè, peggio per loro. E Claudio? Lasciamo ogni tanto un attimo di bianco, semmai che debba entrare qualcuno. Aspetta che quella sta ordinando le pizze, se no si intende tutta la parola. Avanti break. Buonasera, io sono qualcuno. Ciao a tutti comunque, ciao Claudio, ciao Marco e ciao Gianni. Ciao qualcuno, ben sentito, buonasera. Rotondo. Invece il quadrato sei in tondo. Ma va a parlare, di riso, sempre di riso state parlando. No, stiamo parlando di questa merda che c'è in giro, capito, che vogliono veramente chiudere. Solo quello stavo dicendo io, Roberto, perché avendo un'attività mia figlia, chiaramente io difendo la mia categoria, è assurdo poter chiudere per 15 giorni, tu fai le restrizioni che devi fare, come l'Alta Italia, fai dalle 23 alle 5 del mattino, dal lunedì alla domenica, e vedi che la gente le bassa la macchina a in giro per fare assembramenti la notte. No, ma poi questi che parlano sono tutti gli stipendiati, tutti quelli che hanno lo stipendio bello pronto, anche se che sei a casa per arrivare a tessere di là, non pensano a tutti quelli, tipo nel caso di tua figlia che fa quel tipo di attività, o me che faccio questo tipo di attività, a me i soldi non me li dà nessuno. Ma infatti, io non penso a me, Roberto, lo sai, io penso anche agli altri, perché è assurdo che le attività sono state riaperte dopo 40 giorni, dopo quasi due mesi, sono state aperte a giugno, infatti siamo a metà ottobre e tu vuoi di nuovo chiudere, ma è assurda una cosa del genere, è impensabile, fai le restrizioni come stanno facendo in Alta Italia, da lunedì alla domenica fai quello che devi fare, nel senso che dalle 18 c'è un certo tipo di sistema di lavoro e dalle 23 alle 5 del mattino lockdown, nessuno può uscire di casa, boh, finito. Io qua non sono d'accordo con quello che stai dicendo tu, perché il virus orario non ne ha. Io dico è tutta una montatura, basta stare attenti, se tu hai problemi subito vai e ti fai fare quello che devi fare. E vedi che tutti i problemi, non è che tu ci vai il coronavirus, sei lebroso e contagi tutto il mondo e muoiono tutti. Cerchiamo anche di essere un po' più realisti, ci stanno spaventando di una cosa, cacchio, che sono fesserie. È come l'influenza, un pochettino più grave, perché se tu non la curi nei modi opportuni c'è il rischio di che sia grave la situazione, però non puoi fare a questo punto distruggere tutte le attività, hai visto quante attività hanno chiuso, basta prenderti un po' di bar in giro e ti rendi conto, il bar è l'ultima cosa, guarda ristoranti o cose turistiche, a ver cosa è successo. Da quello di Bergamo che è poco più di un'influenza, roba ti ammazza. Vabbè, è una cosa un po' diversa, fregatene, è un po' diversa. diversa, è una patologia molto diversa, ti prende i polmoni e alla fine non respiri più e muori, manco l'ossigeno disalva, lascia perdere. Io sto parlando degli assembramenti, Robè, assembramenti, capito? Dalle 23, dalle 22 fino alle 5 del mattino, quando tu chiudi, fai lockdown da quell'ora, hai tutta la mattina per poterti fare la spesa, per andare dal medico, per andare al tabacchino, per prendere il giornale, per fare le tue cose, sempre stando molto attenti. Ma il problema base sono i ragazzi che non hanno capito un cazzo, niente, continuano a fare quello che vogliono, è quello che bisogna fermare gli assembramenti di queste persone che non capiscono che siamo in un momento molto delicato e a loro non gliene fotte niente. Eia, vabbè, ok, cosa stavo dicendo? C'è qualche donato qua su questo canale? Sì, c'è Ratapignara che sta mangiando. Chi c'è? Ratapignara che sta mangiando. Eare. Marco Condor. No, vabbè, Marco lo già so. Ma Gianni, tu sei più basso del solito, come mai? Perché Susanna non ha parlato buono gatto, potrei farti meglio. Ah, perché vabbè, che la radio comunque è sempre chiara, buona, se 9 più 15 segnale, è leggermente più forte prima. Vabbè, va benissimo lo stesso, è inutile avere 9.40. Guardate, farci sentire bene e puliti. Ok, cosa volevo dire? Abbiamo detto, siamo io, Claudio, Marco e Gianni Doppiolù. Vediamo l'amico Marco se il fuso orario è tranquillo o sta dormendo. Avanti Marco. Sempre East Coast, fra un po' passiamo all'altra e così facciamo la vita al vampiro proprio, capito? E io, ciao Robè. No, stavo scrivendo qua, stavo messaggiando, quindi se non riprendo subito è per quello. Sì. E ho rotto le palle. Comunque stavolta la macchina l'ho messa proprio sotto la finestra e credo che non faccio la spesa qua vicino e stacco la batteria. Distacco la batteria così non si scarica, anche se per 15 giorni non credo che ci sia necessità. L'altra volta invece era passato ben più di un mese e mezzo, quant'è che hai detto, credo, 40 giorni, forse anche di più, non la muovevo da allora, forse l'ho spesa qui da Copec, e infatti la batteria ne ha risentito, l'ho ricaricata, questa volta stacco il positivo, almeno il positivo, o tutte e due, poi vediamo. A me ci ho rimesso la batteria e tutto il resto della macchina, pigliamola, ho ordinato e cambiato Roberto la batteria della macchina. Proprio nulla, sono andato a mettere in moto, morta completamente, con tutto che ogni tanto la mettevo in moto, capite? Perché mi spostavo solo qua nel circondario per il cane e basta. Oia, riprendi Gianni, riprendi. Metti di stacca batteria Marco, così non fai più fatica. Metti la stacca batteria e si è a posto. Ma non c'è nemmeno bisogno, io quando mi hanno operato sono stato un mese senza usarla la macchina, una volta solo è sceso un amico a mettermela in moto e basta. No, un mese pare stata. E dopo che l'ha messa in moto altri due mesi, perché prima di guidarla sono dovuti passare due mesi. Gianni Casarella! Vai, Luca Manicomio, fai da bravo. Comunque la batteria, ricordatevi che dura mediamente 3 anni, perché gli elementi si consumano, lo zinco, c'è un'autoscarica, poi molte volte quando c'è l'autoradio non originale, quando chiudi il quadro rimane sempre stand by, piano piano ti buttate dalla batteria, perché c'è un leggero assorbimento, se sei 15, 20, 30 giorni senza farla funzionare, poi dai un paio di messe in moto, non hai tempo di caricare, poi la batteria se ne scende completamente. Poi quando c'è più di 3 anni, mettetelo in preventivo, soprattutto d'inverno, anche gli attriti sono molto maggiori, per cui lo spunto in accensione è molto superiore. E abbiamo cambiato una marea queste cose, hanno guadagnato questi che vendono le batterie nel periodo di coronavirus, una cosa mai vista. Aspetta, ciao Lu, aspetta centrale. No, Robè, ti volevo dire, io tempo fa ho preso sempre batterie abbastanza economiche, no? Tempo fa avevo preso da quel meccanico in via Polo Torres, no? Una magnete Marelli, ho detto, magari è migliore, magari dura di più, pagata col sangue ovviamente, è sempre sotto i 3 anni, mi pare 2 anni e mezzo, poi chiude la batteria, cioè allora d'ora in poi tanto vale comprare quelle di Auchan, quelle Ursus, 50 euro la batteria, ho visto che più di 3 anni non durano, né di marca e né da 13, quindi tanto vale spendere poco, o no, vai Robè. da Cappelli bisogna andare. Allora, le batterie Ursus non sono una cagata, sono delle ottime batterie. Il discorso delle batterie, te le presente, sono già con l'acido, per cui quando vengono conservate c'è già un sistema di cose, una reazione chimica inizia piano piano a mangiarti lo zinco, per cui la tensione nominale della batteria piano piano col tempo, se ce l'hanno conservata un anno, non è la stessa cosa di prenderla appena comprata. Quelle Ursus sono ex accumulatori alto adige, sono delle ottime batterie, sono più pesanti della media, però sono costruite con criterio. Io te lo dico perché ne ho preso diverse, ce le ho nel camper, ne ho cambiato tante, sono ottime batterie. Magneti Marelli niente da dire, però Magneti Marelli non è più il marchio di una volta, adesso stanno costruendo in Cina, per cui magari prima di arrivare in Italia le batterie chissà quando arrivino, quanto tempo passa. E per cui dico mediamente 3 anni, ci sono batterie anche 6-7 anni, diciamo che hanno gli elementi rinforzati, quelle per il sistema start e stop sono batterie rinforzate ma costano un sacco di soldi. Io dico, le Ursus costano di media un ampere, un euro ad ampere, 60 ampere costa 60 euro, sono batterie che vanno più che bene. Solamente bisogna vedere tutto il resto delle batterie, che se carica bene l'alternatore eccetera eccetera. Quella Opel originale 7 anni mi è durata. Se vedi quello del BMW, che in assoluto sono le migliori di tutti, guarda, non ho mai visto batterie di quelle qualità, non so chi gliele produca, però sono eccellenti, hanno una robustezza spettacolare. Le altre di media, quelle Toyota, quelle macchine lì, tutte da 13, anche Fiat, sono batterie un pochettino abbastanza economiche, perché sono proprio al limite della carica, per dire la macchina ti chiede 45 per di elemento 45, 44, mai di più. Gli BMW invece si tiene molto più larga come coso, c'è un alternatore che carica molto bene, le batterie sono sempre sovradimensionate. Bianco per me, c'era anche Luca, dai. E avanti Luca. Dai, mi sto controllando il cane, ciao anche Roberto, ciao Marco, ciao Gianni, ciao Claudio. Mi sto controllando il cane, che sto guardando. E lì sei lui. Ma capito Roberto, la mia è durata 7 anni, quando sono andato dall'elettrauto in via Montello, mi ha detto, ma la mattina mi sta andando male, la mattina sta partendo a colpi la macchina e tutto. Ha provato, te scarica e proviamo, ha guardato, mi guarda la data, dice, ma scusa ma cosa pretendi? Che sono 7 anni per lei che c'ha batteria. E allora? Luca, dove sei? Guarda, la 25. Ah, ok, infatti eri molto più basso del normale. Ok, c'è qualche altro che vuole entrare, sento sotto. Avanti, chi vuole entrare? C'è un bel di propagazione, Roberto, sì. Ehi, è anche forte, Santiago 9. Forse sono in banda laterale, però. Sì, non sono qua. Quella della Opel, cavolo, mi ha durato forte. E poi l'avevo comprata da Cappelli, un'altra che non era di marca, e da 80 watt. Ma quella lì l'ho versata, la macchina che ce l'avevo già 4 anni con la batteria, è andata bene per 4 anni e ha fatto una buona durata. O c'è l'alternatore che è particolare, non lo so, ne tiene bene. La Opel, perlomeno a me, quella macchina lì mi ha dato tante soddisfazioni. Non ho fatto mai un lavoro, mai niente. Marmitta originale, frizione originale, motore non ho mai rifatto. Con 300.000 km camminava come il primo giorno che l'ho presa, immaginati tu, li facciamo italiani e quello sì, però la macchina non mi ha mai dato problemi. L'ultimo periodo mi è partita la centralina, perché sicuramente io usavo il lineare e mi ha detto quello della Opel, che sicuramente è quello che me l'ha fatta partire. Poi parti per chiamare la centralina, io non mangio di lineare baracchino, ma la 147 può capitare. La mia ha 5 anni aveva la batteria, quella l'abbiamo cambiato. Dove l'hai presa la roba, quella lì, in via Sosso? No, in via Cosa sono andato, da Stefano, in via 4 novembre. Ah, è buona, anche un po' più, c'è più ancoraggio, infatti è molto veloce dal partire adesso. E vabbè, le batterie, la montezza della macchina, Gianni, dipende sempre da noi. Io, la mia ce ne ha 320.000 di chilometri, e la batteria la conosce la mia macchina, è un gioiello, perché va fatta sempre la manutenzione e va fatto tutto, quindi è molto importante. Abbiamo caricato l'aria condizionata, queste estate, c'è poi lì da Roberto, e basta, altre cose non le ho fatte. Va bene, sì, sono tedeschi, c'è un po' di preparazione sotto, va bene. Io, Roberto, bene, sto arrivando, segnale, radio. Che abbuglia 960, sì, la radio è forte, chiara, ma più che bene, solita radio, forte e potente. E questa non è il 60 però, questo è l'SM20 della ICOM con l'adattatore sul 140. Cazzo, non me ne sono accorto, sta usando benissimo. Cazzo, sai cosa ho detto ieri, sembrava l'MC60. No, ma è anche Massimiliano, non ci credo che ho fatto il video. No, ma è... Mimi, il tram, il tram. Ancora opera il tram, la TP. Credo fosse Regerto, il VHF civile. No, già ci sono. Ci sono. Io li tengo sempre, solo se sono sotto controllo. Non lo abbassiamo, però insomma c'è la casina. Niente, l'ICOM si sposa bene, i microfoni ICOM si sposano bene con quelli Kenwood. Quelli Kenwood sposano bene con l'ICOM, sono già prove che io ho fatto tanti anni fa, infatti avevo sempre l'adattatore. Siccome ho venduto una radio con l'MC60, me ne mancava uno di Kenwood, ne ho tre, allora ho detto ma c'ho l'SM20 libero, la metto l'SM20 a 140 e quindi sto usando l'SM20 lo becco col 140. Ah, è il 14 è questo? Sì, questo è il 14, sì. Questo è il 430 che è acceso, anche il 440 è acceso. Sono sempre accesi in altre frequenze per tenere sempre i condensatori carichi, però il 27 la maggior parte sto sempre andando con questo. No, va grande, è fortissimo, dai, vabbè, la solita radio è tua, niente da dire. Ok, vediamo un pochettino Luca se c'è ancora, se no riprende Gianni che passerà il mic a Marco. Avanti Luca. Sì, riprendete voi che altro non sento una famiglia luce adesso. Ehi, a chi è che stava gridando sottofondo? Cazzo, c'è per la propagazione. Rumba che è alta, voglio azzicchirvi. Sì, c'è la propagazione oggi. Aspetta, ma secondo voi cambia il tempo? E qua vedo vento, vedo nuvolaglia un po' in transito almeno. Non lo so se poi debba piovere o no, boh. Devo guardare il meteo. C'era Claudio che stava pillacciando, boh. Domani dalle 23 qualche spicco di acqua, però niente di importante, poi domenica è buono. Praticamente la perturbazione d'aria calda è già passata, quindi questa penso che sia l'ultima perturbazione perché alle Beccio sta caricando, già nuvoloso, fine settimana ha dato acqua, così c'è scritto, così ti ho detto già, ma già si vede, io stamattina ero su, già c'era molto più fresco rispetto a ieri, capito? C'è molto più fresco, adesso il vento ha calato ed è anche nuvoloso, vediamo un po'. Insomma, poi sono i gabbiani a terra, quando sono i gabbiani a terra dice che porta acqua, buh. Allora qua ha messo 5% d'acqua oggi, poi sabato 50% pioggia, domenica 10% con il sole, lunedì 80% c'è, martedì lo stesso, poi mercoledì 10% con il sole, comunque i gradi sono 21, 21, 16, 19, 20. La temperatura rimane un po' altina perché c'è ancora questa perturbazione di Scirocco e di Beccio assieme da sud, tanto è vero se guardi i venti sono sud, sud-ovest, sud-ovest, c'è appena un ingresso di maestrale mi pare domani, ma leggero, poi è sempre di Beccio e di Beccio porta acqua, non c'è niente da fare. E piove anche acqua sporca Gianni, quindi preparati a lavarti la macchina. Io l'avevo appena lavato, anche un po' di siccome era un parrucchiato, quindi lavavo mia genera, ce la lava lui. Già non ne lavo io. Claudio, digli com'era quella volta dentro la macchina a Roberto. Un cassonetto di Mondezza. Ma di chi? Di Marco Condor. Non so cosa dovevamo fare, insomma, sono andato, ho venuto sotto casa, mi sembra, non mi ricordo mai cosa dovevamo fare. Cazzo, mi voglio anche questa macchina, un cassonetto di Mondezza, presente ce l'hai. C'era l'indifferenziata, del sedile di davanti c'era una bottiglia di plastica, nel sedile dietro c'era la Mondezza, in quello lato passeggero, nel sedile di dietro del lato guida c'era addirittura la sabbia tutta gagnata di Lugani, mentre